rivendicherò, figli di puttana, fosse l'ultima cosa che faccio. La pagherete per quello che mi avete fatto. Per ogni secondo che passo in questa fogna, sarò io a spaccarvi il culo stavolta. Vi infilerò un ago nelle orecchie. Me ne starò lì a sentirvi urlare. Che splendida musica per le mie orecchie. Voglio che sappiate che sono io che vi sto facendo tutto questo. Io!